in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Grazie a tutti gli ascoltatori che anche così presto e persino di domenica stanno già mandando dei messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. E poi ricordo fin d'ora, perché magari più tardi me lo dimentico, poi il tempo diventa, vengo presa dal rispettare l'ora di chiusura. Ricordo che domani alle 6:30 torna Alessandro Milan a 24 mattino. Settimana scorsa era in vacanza e tutti gli ascoltatori che appunto si chiedevano dove fosse, era semplicemente in vacanza. Lunedì, domani torna. Ma veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore. L'apertura è dedicata alle novità sui giovani, sui contributi che chi assume giovani dovrà mettere in conto, quindi il famoso cuneo fiscale. È, secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, trovate poi tutto nei dettagli a pagina 3, e questo cuneo fiscale, come del resto era stato anticipato dal ministro Padoan settimana scorsa, è allo studio di Palazzo Chigi. Perde però quota l'ipotesi di una decontribuzione totale, perché non sarebbe, purtroppo possiamo dire, però questo è lo stato dei conti pubblici italiani, non sarebbe possibile. Vi segnalo, poi dall'interno vedremo altre cose. Siamo arrivati ormai già alla decima puntata di questa nuova domenica del Sole 24 Ore, nel dorso principale, con il viaggio nell'anima dell'Europa di Carlo Ossola. La tappa di questa settimana è Otranto, e poi gli incontri, che sapete si alternano: una settimana sono a tavola con Di Paolo Brico, questa settimana invece è l'incontro Beda Romano, che anche gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene. Ha incontrato Claudio Borio, che è il capo economista della Banca per i Regolamenti Internazionali, e spiega in questa intervista, oltre a tante altre cose, come in realtà forse la crisi, quella che tutti indicano, la crisi economico-finanziaria, che poi è durata per tantissimi anni, forse in Italia dura ancora, quella iniziata nel 2008 con il crack di Lehman Brothers negli Stati Uniti, in realtà i segnali si erano già avuti prima. Il Corriere della Sera titola su un'altra notizia di cronaca, completamente diversa da quella del Corriere della Sera, che riguarda il costo del lavoro, perché ieri è stato dimissionato, possiamo dire così, l'amministratore delegato della Consip, che è la società che, sapete, decide le gare, gli appalti, per tutto quello che riguarda le società pubbliche. Il Corriere della Sera scrive: terremoto ai vertici. È un terremoto di manager, ma anche politico, perché questo signore, che è stato appunto dimissionato, è anche, si chiama Luigi Marrone, ex a questo punto, anche se ha detto che lui non si muove, è anche il grande accusatore di Luca Lotti, al quale secondo le accuse di Marroni venivano date in anticipo molte informazioni sull'assegnazione degli appalti. Luca Lotti all'epoca era sottosegretario del governo Renzi, e ora sapete che è anche ministro dello sport, quindi è comunque ancora un personaggio di primo piano. La fotonotizia però è dedicata a un intervento che ha fatto ieri Tim Cook, che è il numero uno di Apple. Sorrido mentre lo dico, perché ancora adesso alcuni ascoltatori si ricordano la piccola polemica, piccolissima, su come si pronuncia Apple, perché appunto si pronuncia con la A e non Apple, come spesso si sente dire in Italia, ma non è poi così grave, insomma nessuno è tenuto a sapere esattamente come si pronunciano le parole inglesi. Però eccolo qua, il numero uno di Apple, che ieri ha partecipato alla cerimonia di laurea di questo anno accademico dell'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, forse la più importante università, appunto con un focus sui corsi di scienza e di tecnologia degli Stati Uniti, e anche tra le più importanti al mondo. Spesso queste università alle cerimonie di laurea invitano personaggi di spicco dell'economia o anche semplicemente della società, a volte proprio scrittori. fuori per fare un discorso, indipendentemente dal fatto che quelle persone si siano o no laureate in quell'ateneo, che quindi siano degli alunni illustri di quell'ateneo. L'idea di questi discorsi è di ispirare gli studenti per tutto quello che li aspetta dopo la laurea, che naturalmente è solo un primo traguardo. E la sintesi di questo intervento di Tim Cook, che poi trovate tradotto a pagina 31, è: servire l'umanità vale più dei mi piace. Naturalmente i mi piace, quelli che mettiamo nelle pagine Facebook. La Repubblica si autocita, nel senso che oggi è l'ultimo giorno dell'edizione di Bologna di Rep Idee, che sono questi quasi dei meetup, non me ne voglia Repubblica, però insomma sono degli inviti soprattutto ai lettori di Repubblica, ma non solo, a incontrarsi in alcune città. È già successo in molte altre città, e in questa inizio di estate la scelta appunto è caduta su Bologna. Ieri tra i molti ospiti c'erano lo scrittore Mario Vargas Llosa, che ha parlato di populismo e letteratura, da qui anche il titolo Rep Idee, la folla del sapere, da Vargas Llosa a Bergonzoni. Il titolo principale però è di nuovo un'autocitazione, perché tra gli ospiti di ieri a Rep Idee c'era il primo ministro Paolo Gentiloni, al quale sono state fatte molte domande su un palco dove c'era anche il direttore di Repubblica Mario Calabresi. Tra queste, quella che poi ha fatto i titoli di molti giornali, ma non solo, l'avete sentito anche ai GR di Radio 24, riguardava lo Ius Soli, la legge che così tante polemiche sta scatenando. Gentiloni ha ribadito che dal suo punto di vista approvare questa legge è un atto di civiltà. Con la Repubblica, come ogni domenica, anche l'Espresso. La copertina è dedicata proprio alla situazione dei nostri vertici politici, quindi non soltanto Paolo Gentiloni, che è il Premier, ma anche Sergio Mattarella, il Capo dello Stato. Il titolo della copertina, che vede una caricatura di Mattarella seduto su una poltrona con in mano una specie di fune, quasi forse un guinzaglio, e tanti che lo stanno tirando, il titolo: tiro alla fine, mappa di un Parlamento ormai senza bussola, confuso tra bipolarismo e larghe intese e senza leader forti, con il solo punto fermo di Sergio Mattarella. E abbiamo visto nei giorni scorsi qual è la modalità spesso di discussione nel nostro Parlamento, prima soprattutto credo abbia fatto molto effetto a tutti la bagarre che c'è stata proprio quando si discuteva dello Ius Soli in Senato. La Stampa invece ha un titolo diverso, pare infatti che sia imminente un vero e proprio documento nel quale Papa Francesco scomunicherà, proprio con un decreto di scomunica, tutti coloro che hanno condanne definitive per mafia o corruzione. Il Vaticano prosegue sulla strada aperta da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, quindi i suoi due predecessori, è stato formato un gruppo di lavoro. Poi ieri in Vaticano Papa Francesco, questa è l'altra notizia, ha ricevuto il cancelliere tedesco Angela Merkel, e la Stampa sintetizza il messaggio che hanno voluto lasciare poi alla fine dell'incontro: abbattiamo i nuovi muri. La fotonotizia però è dedicata al Monte Bianco, è una bellissima foto di un tramonto sul Dente del Gigante, una delle punte del Monte Bianco, è sempre coperta da ghiacciaio. Anche in estate sul Monte Bianco e dintorni si può anche andare a sciare, a fare sci estivo, proprio perché c'è un ghiacciaio. La notizia è che si scioglie anche la cima del Monte Bianco. Lo zero termico è sempre più alto e supera i 4.800 metri. Quali sono i rischi che ci aspettano? Avvenire, forse un po' a sorpresa, non titola su questa notizia che è arrivata del gruppo di lavoro che si sta costituendo in Vaticano per istituire una scomunica per mafiosi e corrotti, titola invece su come dare una forma di cittadinanza alle persone che non sono nate in Italia, oppure sono nate in Italia da genitori che non lo erano, quindi appunto lo Ius Soli. Il titolo dell'Avvenire: già con trattino cittadini. È citato Gentiloni: italiano chi nasce e cresce qui è una questione di civiltà. E il Premier, quindi Gentiloni, spinge la legge sullo Ius Soli e lo Ius Culture ferma al Senato. Qui c'è una citazione anche di Marco Minniti, ministro dell'Interno, che sulla questione ha detto: ricordiamoci che l'integrazione, nel nostro punto di vista, è sicurezza e non il contrario. E poi c'è l'intervento, una citazione, un virgolettato di una delle tante esternazioni di ieri di Beppe Grillo, che ha definito la legge sullo ius soli, testuale, un pastrocchio invotabile. La fotonotizia però è dedicata a un allarme che viene dagli agricoltori: siccità ormai consueta, il clima che cambia. Quindi da una parte il Monte Bianco senza ghiacciaio, dall'altra in pianura, per esempio, la siccità. Ci lasciamo un attimo per una breve pausa, qualche aggiornamento sul meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentrovati ancora alla nostra rassegna stampa. Eravamo e siamo ancora sulle prime pagine dei giornali, ce ne mancano alcune. Il Messaggero si concentra sulle nuove norme per la pensione anticipata. Ai lavoratori che usciranno prima con l'APE Social, appunto l'anticipo della pensione, anche il bonus di 80 euro mensili. Vengono riportate molte dichiarazioni fatte ieri, tra le quali quelle del direttore generale dell'INPS, Graziella Di Michele, possibili nuove richieste a novembre, quindi c'è ancora un po' di tempo. Molto interessante dal Messaggero un'analisi di Lorenzo De Cicco su quanto costano a Roma gli scioperi, ce n'è uno al mese circa, e dei trasporti, e tutte le manifestazioni che si tengono a Roma. Lo spunto è anche quella che c'è stata ieri contro i voucher, contro la legge sui nuovi voucher. Pensate, Roma in ginocchio per i cortei, disagi e 50 milioni all'anno. Il biglietto caro, carissimo, lo pagano sempre i romani, oltre 50 milioni di euro all'anno. Tanto costa alla città, dove c'è uno sciopero dei trasporti al mese per bloccare la metro, è successo venerdì scorso, basta un pugno di dipendenti mossi dai mini sindacati e ogni giorno si contano più di 5 manifestazioni. Proprio venerdì, dopo che in tutta Italia c'era stato questo sciopero dei trasporti pubblici, che però ha paralizzato alcune città più di altre, Roma in particolare, si è ricominciato a parlare di nuove regole sugli scioperi, e vedremo se, visto che purtroppo siamo vicini alla lunga estate dei parlamentari, vedremo se poi seguirà qualche fatto a queste parole. Il Manifesto titola proprio sulla manifestazione che c'è stata ieri a Roma: la Piazza Rossa. In centinaia di migliaia invadono la città per la manifestazione indetta dalla CGIL contro quello che il Manifesto definisce lo scippo del referendum. Sapete che la CGIL aveva raccolto oltre 3 milioni di firme per fare questo referendum per abolire i voucher, che era una delle è ancora una delle regole, delle prescrizioni della Jobs Act. Poi, per scongiurare questo referendum, i voucher sono stati cancellati nella forma in cui erano prima, e ce n'è però una nuova forma, perché i voucher corrispondono in realtà ha un'esigenza di molti lavoratori e di datori di lavoro, cioè di uno strumento di pagamento che non sia in nero, perché comunque una parte di quel voucher viene poi versato in tasse, e che serva quando i lavori sono a ore o a giorni. Però questi nuovi voucher non piacciono alla CGIL. Vi segnalo che il Manifesto è praticamente l'unico giornale che mette in prima pagina il ballottaggio di oggi in Francia. Una settimana fa appena c'è stato il primo turno per il rinnovo del Parlamento francese, con, sapete, il trionfo di Macron, e oggi si vota per il secondo turno. Tutti prevedono un'affermazione forse ancora maggiore di Macron, salvo sorprese. Sulle 24 ore in realtà c'è un commento in prima pagina di Roberto Dalimonte, esperto di politica, che analizza il sistema elettorale francese, però proprio come notizia è appunto soltanto il Manifesto che ce lo ricorda. E il Manifesto mette in prima pagina anche l'aggiornamento sulla tragedia della Grenfell Tower, quel grattacielo di 24 piani che ha iniziato a bruciare nella notte tra martedì e mercoledì. Tra l'altro adesso si teme anche che la struttura possa non tenere, che quindi potrebbe crollare. Per ora è solo un grattacielo appunto alto, è una specie di cadavere bruciato che si si staglia nella zona ovest di Londra, ma ci sono anche dei dubbi appunto sulla tenuta. Ieri ci sono state molte proteste davanti al Parlamento e anche a Downing Street contro la Premier Theresa May. L'opinione pubblica se la sta prendendo più con lei che con il sindaco di Londra per una serie di questioni, ma ce ne sono anche molte in sospeso che vengono un po' fuori con questa tragedia. Per esempio, i londinesi sono scesi in piazza anche per protestare contro i tagli sulle case popolari. Abbiamo parlato spesso della sconfitta di Theresa May alle elezioni anticipate dell'8 giugno, moltissimi fattori, e forse qui in Italia non abbiamo abbastanza sottolineato che ci sono anche tante misure che ha preso Theresa May che, al di là delle paure legate al terrorismo, delle polemiche che ci sono anche nel Regno Unito sull'immigrazione, queste misure che riguardano soprattutto il welfare, Theresa May appartiene al partito dei conservatori, quindi è anche normale che ci si aspetti, come aveva fatto prima di lei la famosa Lady di Ferro, Margaret Thatcher, un taglio al welfare. Questi tagli però sono appunto, hanno colpito soprattutto le case popolari e la sanità, e forse Theresa May ha pagato la sconfitta elettorale, ha pagato queste misure anche con questa sconfitta elettorale dell'8 giugno. Tra l'altro ricordiamo che la Gran Bretagna ha in questo momento non soltanto un hung parliament, cioè un parlamento a peso dove non c'è una chiara maggioranza, ma ancora non si è ben capito quale sarà il rimpasto del governo a questo punto necessario per Theresa May. Il giornale si dedica allo Ius Soli, la sinistra usa anche i bambini per lo Ius Soli, il riferimento è ad alcune cose che sono state dette ieri a Bologna, appunto a Rapide, quindi anche un attacco a come Repubblica sta raccontando, secondo il giornale, questo iter legislativo dello Ius Soli. La Verità invece titola su un fatto di cronaca che viene proprio dal Regno Unito, dove c'è questo bambino, Charlie Gard, che è nato il 4 agosto del 2016, quindi non ha neppure un anno, è affetto da una rarissima sindrome, una malattia rara, per l'esattezza, si chiama sindrome da deperimento mitocondriale. I mitocondri sono quei organelli delle nostre cellule, quindi una cosa microscopica, ma sono alla base. E sono un po', ci dicevano a scuola, i polmoni delle cellule, quindi sono la base del funzionamento delle cellule. Questo bambino non ha chance di sopravvivere e si è deciso che le autorità inglesi, i medici, quindi i medici e i giudici inglesi hanno deciso che gli deve essere praticata l'eutanasia. I genitori si oppongono, hanno fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, e La Verità dedica a questa vicenda di cronaca che sicuramente pone moltissimi interrogativi di bioetica la sua apertura. Libero. Gentiloni è cotto, il riferimento a quello che il Premier ha detto ieri di nuovo a Bologna, pensa solo agli immigrati. E poi c'è un articolo, anche Libero mette in prima pagina, anche se non di apertura, questa vicenda, una vicenda di bioetica. In questo caso però riguarda un bambino di 7 anni, che anche a sua volta affetto da una malattia rara e incurabile, e il senso dell'articolo di Antonio Socci dal titolo, e ripeto, questi sono veramente temi delicatissimi sui quali dobbiamo interrogarci, ed è molto difficile legiferare. C'è il diritto di morire, ma pure di vivere. Appunto, il riferimento a queste sentenze che, di fronte a una resa della medicina che dice: noi in questo momento non possiamo curare certe malattie, e non possiamo certo garantire che ci sarà una cura in futuro, si decide appunto per una strada di eutanasia. Ognuno, in queste situazioni difficilissime, si può esprimere la propria opinione, forse può farlo in realtà soltanto chi vive queste situazioni così difficili. Il Fatto Quotidiano, e così rispondo anche all'ascoltatore che dice che io sono una renziana incurabile, e che dovrei leggere Il Fatto, lo faccio in realtà, l'apertura del Fatto Quotidiano è su delle nuove intercettazioni sul ministro Maria Elena Boschi, che nel governo Renzi era ministro per le riforme istituzionali e ora, sapete, è sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Avrebbe in queste intercettazioni il padre del ministro Boschi avrebbe detto: parlerò di Etruria con Renzi e con Maria Elena, e tutto questo smentirebbe le dichiarazioni fatte più volte ripetutamente da Maria Elena Boschi, che di non essersi mai occupata del caso Banca Etruria. Questa frase del padre risalirebbe, secondo la ricostruzione del Fatto Quotidiano, a 7 giorni prima del commissariamento dell'istituto. È un'intercettazione del padre mentre parlava con il banchiere Consoli. Ma veniamo, prima di una breve pausa sul traffico, alle pagine interne del Sole 24 Ore. Parlavamo dell'inizio della crisi, della grande crisi economico-finanziaria che ha tenuto in scacco la maggior parte del mondo per almeno una decina d'anni, per poco meno di 10 anni, scusatemi, quindi iniziata nel 2008. Tra i grandi accusati c'erano questi strumenti finanziari, i derivati. Moria Longo ci racconta, pagina 4 del Sole, l'impatto dei derivati dello Stato sull'effetto quantitative easing. Dal 2013 l'effetto sui conti è stato pari ai minori interessi sul debito pubblico. So che sono argomenti molto tecnici e che la finanza può sembrare una cosa lontana dalla vita di tutti i giorni. Non è in realtà così, e in questa pagina Moira, che ha una scrittura chiarissima e allo stesso tempo è un super esperto delle cose di cui scrive, ci spiega, veramente ci dà un'idea di che cosa sono questi sconosciuti derivati, di cui tra l'altro c'è anche una definizione molto schematica in questa pagina, che è la pagina 4. Ci lasciamo però un attimo per il traffico. In primo piano. Rieccoci, ancora buona domenica da Giulia Crivelli per questa ultima parte della rassegna stampa. E eravamo sulle pagine interne del Sole 24 Ore, trovate le due iniziative speciali della domenica da 10 settimane a questa parte, alle pagine 16 e 17. Alle pagine 16 questo colloquio di Beda Romano con Claudio Borio, grande economista, grande banchiere, che racconta anche della crisi, ma anche delle grandi trasformazioni, per esempio dell'avvento della trasformazione industriale, possiamo chiamarla fabbrica 4.0, possiamo chiamarla in tanti modi, comunque del crescente utilizzo di veri e propri robot nelle fabbriche. E poi la puntata invece del viaggio di Carlo Ossola nei luoghi simbolo dell'Europa, questa settimana è Otranto. Dal Corriere della Sera, prima di passare ai supplementi, vi segnalo invece una pagina del corrispondente da Londra del Corriere della Sera, Luigi Ippolito, che spiega come ieri ci sia stato un messaggio forte della regina Elisabetta, che sapete, il coniuge, il principe Filippo, si è ritirato ufficialmente da tutte le manifestazioni, le cerimonie pubbliche ai quali i reali devono partecipare per motivi di età. Resiste invece la regina, che ha compiuto 91 anni lo scorso 21 aprile. Ieri ha partecipato a una manifestazione e ha anche chiesto un minuto di silenzio, dicendo quanta tristezza ci sia nel paese per questo rogo, in cui, sapete, il numero delle vittime ufficiali sulla base dei resti ritrovati è di 58. E potrebbe però ancora salire questo tristissimo bilancio. Una bellissima storia, secondo me, la racconta Viviana Mazza, pagina 17 del Corriere. È questa moschea che viene definita liberale, e c'è è la moschea di Seyran, perché l'ha voluta Seyran Ates, che è 54 anni, è un avvocato di origine turca che vive in Germania. A Berlino questo avvocato ha inaugurato un luogo di preghiera islamico innovativo, aperta a tutti, niente veli integrali. Quindi piccoli segnali che anche l'Islam può essere moderato, ce lo auguriamo tutti. Veniamo ai supplementi della domenica, e cominciamo come sempre da quello del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Zaino. La citazione è di Aldo Palazzeschi ed è questa: lo zaino più pesante che spalle umane possano reggere sul loro cammino è quello di un'anima. Era il 1915 e sulla rivista letteraria Fiorentini Lacerba appariva uno scritto di Aldo Palazzeschi intitolato Spazzatura. Da quel testo abbiamo estratto la nostra citazione, che vorremmo applicare secondo un duplice significato. Il primo è quello direttamente inteso dallo scrittore. Salvare un'anima è, nel linguaggio comune, soprattutto religioso, l'impegno di sostenere, confortare, redimere una persona travolta dalla disperazione o dal male. È un'opera faticosa che richiede donazioni di tempo e di affetto e tante volte ci costringe a camminare più lentamente nella vita per reggere quel fardello fraterno. C'è poi un altro senso: anche la nostra anima può diventare un carico gravoso ed è forte talora la tentazione di disfarsene ignorandone la voce. Avevano ragione quegli indigeni latinoamericani che a Michael Ende, lo scrittore tedesco, avevano dichiarato: in questi anni siamo corsi così avanti che ora dobbiamo sostare per consentire alle nostre anime di raggiungerci. Ma l'apertura, il pezzo di copertina della Domenica, è in realtà una lunga recensione di Fulvio Erace, che è il storico critico di architettura, di tutto quello che riguarda l'architettura in senso più lato del Sole 24 Ore, è andato a visitare questa interessantissima mostra alla Fondation Cartier di Parigi, che illustra i rapporti che legano le automobili e la fotografia, produzioni, viaggi, strade e impatto sull'ambiente. Grazie alle immagini l'auto è diventata oggetto del desiderio, eccellenza industriale e strumento di libertà, ma anche agente di mutamenti del costume e del paesaggio. E sappiamo per esempio che una delle tante trasformazioni dell'auto la stiamo vivendo in questi anni con il car sharing, il noleggio a breve termine. Insomma, è un mondo che effettivamente riflette cambiamenti culturali e sociali. Come sempre, ormai da 32 settimane, con la Domenica del Sole 24 Ore, quattro pagine dedicate ai lettori più piccoli, la copertina, la firma Sara Sesia, abbracciare il cervello dei bimbi, perché un bambino diventi un adulto consapevole bisogna trasmettergli empatia, paura, passioni e desideri. C'è un manuale appena uscito da Salani di Alvaro Bilbao che si intitola Il cervello del bambino spiegato ai genitori, che appunto spiega come usare il potenziale intellettuale ed emotivo nei primi 6 anni di vita. La lettura del Corriere della Sera affida, come ogni settimana, la copertina a un artista, e questa settimana è Miroslav Balka. Dall'interno, alle pagine, in realtà subito alle pagine 2, 3 e 4, una lunga, lunga chiacchierata di Stefano Bucci con David Hockney, uno dei più famosi artisti contemporanei britannici viventi. In questo momento c'è una sua grande mostra a Venezia, la Biennale di Venezia, e un'altra a Parigi, una si è appena chiusa a Londra e un'altra in programma a New York. Più di così, alla vigilia dei suoi 80 anni, in questo momento è l'artista più visitato. Qui svela gusti, passioni e dipendenze, a partire da Picasso, la primavera inglese e le tecnologie digitali e anche la sigaretta, perché dice gli amori di Hockney: dipingere, fumare e avere denaro a sufficienza. Davvero molto interessante questa intervista, naturalmente illustrata da tante opere di David Hockney. Curioso questo reportage, un po' che prende spunto anche da alcuni libri di Andrea De Cesco, intitolato Socrate lavora alla Apple. Di nuovo, eccola qua l'Apple, e rido per l'ascoltatore che mi dice che la scorsa estate in un 7-Eleven, che è quella catena di piccoli alimentari che all'inizio era aperta dalle 7 alle 11 di sera ed era, quando sono nati tanti anni fa, già un'innovazione, ora praticamente sono aperti 24 ore su 24, ma si chiamano ancora 7-Eleven, e mi dice: a Miami non sono riuscito a chiedere se vendessero mele. Quindi Socrate lavora alla Apple, perché questo titolo? Perché la filosofia pratica è l'ultima passione dei capitani d'azienda della Silicon Valley. La crisi economica ha fatto crescere la necessità di interlocutori spirituali nei colossi tecnologici della California. Si ridefinisce il concetto di successo, il valore delle persone non sta più nello status di leader. Passiamo a molto ricca la lettura anche questa settimana, ma volevo segnalarvi comunque anche Robinson, il supplemento domenicale della Repubblica. La copertina si intitola Animal Factor e all'interno ci sono alcuni articoli, secondo me non del tutto condivisibili per chi ama molto gli animali e gli animali domestici e la natura in generale. Michele Serra, per esempio, racconta: cani, gatti e altre specie da compagnia nelle nostre case sono sempre di più, la loro presenza è talmente importante da essere diventata un'ideologia. E ora anche la politica vuole sfruttarla, ma trattandoli come peluche li tradiamo e non scopriamo tutto quello che potrebbero insegnarci. Vi segnalo anche la recensione di un libro che io oggi correrò a comprarmi, si chiama I tanti volti della fame, è di Renate Dorrestein, che in passato aveva già dedicato alcuni libri all'argomento, è una scrittrice olandese, quindi questa volta non è un saggio ma un romanzo ambientato in una lussuosa clinica per dimagrire, ed è una storia centrata sulla mania contagiosa collettiva del cibo e sull'abuso delle parole dedicate a esso, direi un tema di attualità, ma in quel patinato mondo, cioè in questa ipotetica lussuosa clinica, fanno irruzione le diverse forme di disagio legate all'alimentazione e il fragile equilibrio va in pezzi. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, un grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi oggi e durante tutta la settimana al 349-238-6666. Io ho un account Twitter chiocciola Giulia trattino basso Crivelli, ho una pagina Facebook, basta, non sono su altri social. Se volete mandarmi dei messaggi io li trovo comunque sempre stimolanti, sono sempre graditi. Domani, come vi dicevo all'inizio, torna Alessandro. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.